forse ha avuto un'idea. Sono giorni che è lì in casa sua ed ora sa, sì lei lo sa, che l'età spiega tutto meglio del papà. Lei lo sa ed è per questo che è mia e che se torna non la lascio andar via, fino a che sui muri della stanza non disegnerà qualche cosa che a me ricordi libertà. E allora via, via da qui, anche se ti amo giù di lì. Sì, allora via, via da qui, perché va tutto bene, ma chiamami anche tu. Ma Marse in fondo lo sa che ora è Marse a metà, e sa anche che se dentro nella stanza un sogno sta, aprendo le finestre se ne va. Lei lo sa ed è per questo che è mia e che se torno non mi lascia andar via, fino a che sui muri disegnati giù in città qualcosa mi ricordi libertà. E allora via, via da qui, anche se mi ami giù di lì. Sì, allora via, via da qui, perché va tutto bene se i mezzi stanno insieme, ma a metà